Ja Sam, a posto. Ma allora, vabbè. Io il libro l'ho letto, chiaramente perché c'era il figlio che c'era Giulio che vabbè, essendo dei nostri, avevamo detto beh per forza. No, è tribù di Lassus. Della tribù di Lassus, ormai siamo. I due CD che hanno un bel po' di materiale anche molto interessante, cioè tutti i numeri, tutti i numeri dal 20 al 45 praticamente. Sì. E già quello è tanto, diciamo, un bel patrimonio. Ma poi comunque anche lo stesso libro, dico perché magari chi non l'ha letto, è un bel resoconto dettagliato, comunque approfondito, di storia appunto del giornale di Umanità Nova, da quando è stato fondato, anzi anche un po' prima in realtà, periodo immediatamente precedente, all'interno del Biennio Rosso, quindi da 19-20, quando poi viene fondato, fino poi al 44-45, quindi attraverso tutte le vicende appunto del giornale, prima quotidiano, poi dopo che verrà appunto soppresso insieme alla stampa anarchica e comunque antifascista durante il ventennio, poi vabbè rinascerà nel periodo finale della Resistenza come settimana. Vabbè, all'interno del libro ci sono, oltre appunto alla storia iniziale del giornale, alle battaglie appunto contro il fascismo al suo nascere, poi c'è anche tutto il periodo della sopravvivenza di Umanità Nova all'estero, tra gli anarchici appunto espatriati in seguito esiliati in seguito all'avvento del fascismo. Ci sono i tre principali esperimenti, che sono New York, che è appunto quello di cui si occupa Giulio, negli Stati Uniti, New York, poi l'Argentina e infine la Francia. Infatti è il periodo, diciamo, immediatamente prima lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Descrive l'organizzazione delle comunità di anarchici nel periodo dell'esilio. Negli Stati Uniti, falleva che negli Stati Uniti anche in Argentina, comunque falleva anche sul fatto che c'era una comunità politica libertaria già presente, soprattutto a causa dell'immigrazione, no? Che tra fine 800 e inizio 900 interessa quelle zone. E poi in Francia invece il tentativo è più forte, più radicato, perché? Perché comunque è più vicino all'Italia, quindi può, gli anarchici esiliati che stanno in Francia mantengono i contatti con le organizzazioni in Italia, con i compagni che sono rimasti appunto in Italia, e vi è appunto lì anche una, diciamo, maggior parte dei giornali, dei numeri vengono stampati in Francia, cioè lì è l'esperimento in esilio che dura di più. E poi chiaramente vabbè, c'è il periodo della Resistenza, quando appunto rinasce come settimanale, come ho già detto, e vabbè, aspetteremo il seguito anche, no? dal dopoguerra poi fino ai giorni nostri. E il progetto è esattamente quello. Infatti, per cui questo è il linea di massima, diciamo, il quadro, se devo fare un'introduzione. Diciamo. Non so, se... Io stavo pensando... Sì. Io chiederei Franco Antonio se ci raccontano un po'. Come? Se ci raccontate un po', insomma, la storia del libro. Sì, sì. Volentieri, poi magari entriamo più nel merito, no, dei fatti storici. Sì. Beh sì, in effetti, come ti chiami? Elio. È l'unico che l'ha letto, Elio, il libro. C'è qualcun altro che l'ha letto, no? Io ho iniziato, però penso che non lo sia. Io no, però c'era. Lui l'ha venduto, inconsapevolmente, per qualche giorno. È stato un momento veramente importante, no, nel 20, quando è stato creato il quotidiano. E ci sono stati, diciamo, almeno un paio di esperimenti tra la seconda metà dell'Ottocento, con la Favilla di Mantova, che però era sottotitolata quotidiano, però era più internazionalista, diciamo, era quella via di mezzo tra l'internazionalismo e l'anarchismo, no, Amato? Però di fatto non è uscito quotidiano, ma usciva settimanale, ma la volontà era quella, quindi non ce l'hanno fatta. Un altro esperimento è nel 1909 a Milano con un foglio di Ettore Molinari e un'altra compagna, hanno tentato di dar al loro settimanale una vita da quotidiano. Sono usciti 17-18 numeri e è crollato anche quel tipo di esperimento. Molinari è Molinari. Ettore Molinari, non Luigi Molinari. Luigi Molinari è quello che faceva un'altra rivista. Non quella che diventa la scuola popolare. Molinari è Ettore Molinari. Sì, bravissimo. La scuola. Sì. Il Molinari. Molinari è lui. È Ettore Molinari. Non so se conoscete il personaggio. Ettore Molinari era un chimico molto molto apprezzato a livello internazionale e era docente anche lì all'università, no? Di Milano. Lui è sempre stato molto molto attivo nel movimento anarchico su posizioni anti-organizzativiste, non individualiste, perché spesso e volentieri confondono l'individualismo con l'anti-organizzativismo. Lui era anti-organizzatore e con la sua compagna, tra virgolette, che non era ma era l'istitutrice dei suoi figli, Nella Giacomelli si chiamava. Ha dato vita a Milano a diversi fogli, giornali, settimanali, e aveva le possibilità, quindi finanziava. È morto quando è arrivato il fascismo, nel momento in cui si è rifiutato di prestare il giuramento, no? E allora i docenti hanno prestato il giuramento, quindi è venuto una rabbia, è morto sul colpo. Ecco, Ettore Molinari. E lui aveva intenzione a Rivoltella, si chiama un paese sul lago, aveva intenzione, no, di fare una sorta di comune per far arrivare un po' i compagni, non soltanto a livello nazionale ma internazionale, un po' sul tipo della baronata di Bakunin, no, a metà dell'Ottocento. È rimasto questo grandissimo progetto, c'è ancora adesso la villa sul lago di Garda, e però non so che fine abbia fatto, insomma, poi è morto, poveretto. La villa per fare i suoi esperimenti di chimica e aveva già iniziato a farli, poi con l'avvento del fascismo, tutto quello che ne segue, vabbè. Comunque, Ettore Molinari, Nella Giacomelli, anti-organizzatori, sono quelli che spingono nel 1919, in un convegno dei comunisti anarchici a Firenze, spingono affinché il movimento desse vita a un quotidiano, finalmente, no? Non erano stati presi molto sul serio, a dir la verità, ma successivamente, con comunicati, con lettere e quant'altro, insomma, riescono a far muovere il movimento nel suo complesso. Una situazione anche abbastanza interessante nel 1919, perché inizia un anno ricco di battaglie sul territorio e Milano era un centro importante per questo tipo di intervento, anche perché con la fine della guerra del 15-18, no, dove l'anarcosindacalismo, l'Unione Sindacale Italiana si sono mossi comunque in quel periodo durante la guerra, hanno avuto più modo di esprimersi ed essere presente come usi nelle fabbriche e tra i lavoratori. Quindi il momento era importante. Pensano che Malatesta fosse la persona più indicata a venire a dirigere il quotidiano. Iniziano sottoscrizioni a livello nazionale, e naturalmente la polizia comincia ad impensierirsi, no, della questione. Tanto è vero che c'è un faldone dedicato proprio all'Umanità Nuova, all'Archivio di Stato, dove ci sono tutti i riporti, no, delle varie questure, un po' dappertutto, che dicono a Torino sono stati stampati alla macchia dei volantini per sottoscrizione al giornale anarchico Umanità Nuova, che doveva ancora nascere, no? A Ravenna la stessa cosa, sottoscrizioni che arrivano da tutte le parti d'Italia, dall'estero, dall'America, dalla Germania, dalla Francia. Insomma, c'era questo movimento molto, molto importante. E l'unico problema rimaneva Malatesta, che non era in Italia, era ancora esule a Londra, e naturalmente lo Stato italiano ha fatto di tutto per non farlo arrivare. Comunque Enrico Malatesta è riuscito verso ottobre del 1919 a rientrare in Italia. Sbarca a Taranto, accolto da una folla incredibile, va a Genova. Anche il personaggio Enrico Malatesta è incredibile come sia stato ben voluto dalla popolazione, dalla gente, perché rimaneva nel proletariato l'idea di Malatesta internazionalista, quello che aveva fondato l'Internazionale in Italia assieme a Bakunin, assieme a Carlo Caffiero, a tutti i personaggi più noti, no, del movimento socialista dell'epoca. Era l'ultimo rimasto di quel gruppo. E per dire, no, quando lui era esule in Inghilterra negli anni 18-19, prima del rientro d'Italia, le manifestazioni di massa che venivano organizzate dai sindacati, metti a Milano centinaia di migliaia di persone, alla testa del corteo, va bene, c'era il ritratto di Lenin e il ritratto di Enrico Malatesta, davanti a 100.000 persone che sfilavano, questo per dire come era ben voluto, diciamo, no, e rispettato come vecchio internazionalista. Beh, comunque rientra Enrico Malatesta, lo acclamano come il Lenin d'Italia, lui si schermisce, insomma, alla fine riescono finalmente a organizzare e creare questo quotidiano. I soldi arrivano anche più di quelli che immaginavano, va bene? Tenete conto che allora in Italia c'erano almeno 700 gruppi anarchici sparsi sul territorio in Italia, senza contare i gruppi individualisti, anti-organizzatori, quelli legati all'Unione Sindacale Italiana, ai gruppi siciliani e quelli un po' autonomi della Toscana e quant'altro. Come vedete, era un movimento molto molto importante. Se nel 19 il congresso della nascita dell'Unione dei Comunisti Anarchici c'era un certo numero di partecipanti, quello del 1920 insomma sono più che triplicati. Il movimento c'era ed era importante. E Umanità Nuova esce, viene salutato con grande interesse un po' dall'unico giornale della sinistra di allora, che era l'Avanti del Partito Socialista Italiano. Però litigheranno già una settimana dopo i due giornali, a proposito di uno sciopero, chiaramente, no? Perché dai punti di vista sono molto molto molto distanti. Ecco. È interessante la diffusione e la vendita di questo quotidiano. Allora, c'è un documento delle casse di polizia che parla del primo numero uscito. Ecco, sui numeri c'è un po' di confusione, perché c'è chi dice che vengono stampate 5.000 copie, e questo lo scrive Gigi Di Lembo in un libro che ha fatto qualche anno fa con la BFS, La Lotta Umana, precisamente. Parla di 5.000 copie, però Io parlando con Gigi ho detto: ascoltami, ma dove hai preso questa indicazione? Lui purtroppo non me l'ha saputo dire, non si ricordava più. Ma ci sono altre testimonianze, per esempio quelle di Armando Borghi, no, nel libro Mezzo secolo d'anarchia, che parla testualmente che il giornale subito dopo qualche giorno stampa 50.000 copie. E ne poteva stampare di più se il governo non avesse dimezzato la carta. Quindi tra 5.000 copie e 50.000 copie, in prigione c'è una bella differenza, no? E su questo non ho capito bene. Però c'è un documento nelle carte di polizia che dice, è uscito il primo numero del giornale L'Umanità Nova, ecco, c'è tutta la scheda, no? Che è direttore, Enrico Malatesta, che abita in Viale Lombardia numero 22, che allora era estrema periferia di Milano, e dopo c'erano i campi, c'è adesso tutta un'altra cosa, ok? Che è il gestore, Dante Pagliai, i soldi come sono arrivati, e parla del primo numero di 10.000, 9.000, 10.000 copie. Questa è voce naturalmente della questura. Sta di fatto che Umanità Nova, nel pieno della sua attività, arriva a una diffusione di 50-60.000 copie. Va bene? La razionalizzazione della carta gli impedisce di arrivare a 100.000 copie. E questo è importante perché l'Avanti più o meno vendeva le stesse copie. Qualche anno più tardi, nel 24, con la nascita del PCD e con l'Unità arriva a 40.000 copie. Ecco, questi numeri danno l'idea, secondo me, della diffusione, della penetrazione degli anarchici all'interno del mondo operaio, soprattutto. Anche perché c'è Anna Kulishoff, compagna di Turati, di Filippo Turati, una corrispondenza che dice, ah, si lamenta e dice, ma gli operai non leggono che l'Umanità Nova. Se tu vai sui tram la mattina, va bene, vedi gli operai con l'Umanità Nova in tasca e l'Avanti viene boicottata, non viene più letta da nessuno. E già questo è un altro bello. Soprattutto oggi, oggi una situazione. Ecco, questo è interessante proprio. Comunque anche in questi casi Umanità Nova vende di più dell'Avanti, in questo caso, è una sfida ai vertici anche oggi, esatto. Comunque la cosa importante è questa, che il giornale è letto dagli operai, quindi è entrato in un corpo sociale produttivo essenziale, vedete, e soprattutto ha una rete di collaboratori molto estesa, non solamente le grandi città, ma i più piccoli paesi, no? Dalle Alpi alle Pireami, li chiamiamo così, ha il suo punto di riferimento che fa la cronaca della situazione, e questo è un altro aspetto veramente interessante. Poi quando dicono che gli anarchici non sono organizzati, Umanità Nova in verità abbiamo visto che era di una organizzazione incredibile, e soprattutto i cosiddetti anti organizzatori, va bene, come Nella Giacomelli e il suo compagno, si sono poi dimostrati degli organizzatori della Madonna, che anzi è stata Nella Giacomelli, tra l'altro, a dare nome al giornale, e ha scritto una lettera in cui scriveva: si chiamerà Umanità Nova per questi motivi qua, perché insomma ideale, via via discorrendo, e lei che dà il nome al giornale, tutto femminile, un fatto abbastanza interessante. Nel periodo stesso della Giacomelli c'era anche un'altra donna molto interessante, che però non appare molto, ogni tanto c'è qualche suo articolo, parlo di Leda Raffanelli, che in quel periodo viveva a Milano con suo compagno Giuseppe Monanni. Lei si dedicava soprattutto alla editoria e alla casa editrice sociale, che parallelamente nello stesso periodo ha avuto una diffusione di testi molto molto interessante. Ecco, loro erano più sull'individualismo anarchico, ma ciò non voleva dire che non potesse esserci un rapporto, e ogni tanto qualcosa scrivevano su Umanità Nuova, sia lui che Giuseppe Monanni, anche se erano più impegnati nella loro casa editrice. Non era neanche tanto lontano, diciamo, la sede della casa editrice, che era in Viale Monza numero 77, va bene, e Umanità Nuova era in via Goldoni al numero 3, proprio angolo Viale Chiave, vicino per intenderci al Teatro Diana, sono 200-300 metri, non di più. E c'è tutta la storia di come poi viene stampato il giornale. Innanzitutto un vecchio un pugliese di Lecce, precisamente Augusto Micelli, antimilitarista, e lui che riesce a trovare la stamperia per Umanità Nuova. Era amico di Fracchia, uno che faceva questi lavori qua, e trovano questa bellissima sede in via Goldoni numero 3, e sono due cortili, nel secondo cortile era dedicato tutto a Umanità Nuova. E poi chi è che c'era? C'erano diversi personaggi, c'era Mario Perelli è morto negli anni, fine anni 80, no? Chi della nostra età sicuramente se lo ricorda, era sempre presente in Piazza Duomo tutte le sere, va bene, dove si formavano una volta dei capannelli di persone che parlavano e discutevano dei fatti quotidiani e di politica. Oggi è scomparso completamente. Tu non so se ti ricordi questo aspetto qui. E c'erano altri personaggi tipici dell'anarchismo. Poi anarchici, internazionalisti, trotskisti, era un gruppo di... E poi gente anche di vari partiti, quindi si scambiavano opinioni, si incazzavano, insomma. Ecco, Mario Perelli era uno di questi, ma all'epoca aveva fatto parte della prima redazione di Umanità Nuova. Poi Mario Perelli andrà in prigione per l'attentato del Diana e tutto. Comunque, per andare avanti nella nostra storia, il giornale è diffusissimo. C'è un'intervista, tra l'altro, nel libro proprio a Augusto Micelli, che è morto a 101 anni, nel 98, mi pare di ricordare, e casualmente l'ultima intervista gliel'ho fatta proprio io, che poi l'ho riportata qui nel libro. Era lucido, 100 anni, ma era di una lucidità incredibile, e lui ha ripercorso quei momenti della nascita di Umanità Nuova in una maniera veramente sentita. E nella lettura del libro, la parte che riguarda l'intervista di Augusto Micelli, uno sente proprio questa presenza e questo fervore, no, nel ricordare la figura di Enrico Malatesta, dei suoi scritti che erano semplicissimi e comprensibilissimi da tutti. Ecco, era questa una delle caratteristiche e del giornale e di Enrico Malatesta. E certamente da parte della questura non è che sono stati lì con le mani in mano. Già da subito c'è stato il tentativo di chiudere il giornale, primo facendo mancare la carta, e grazie alla rete di sindacalisti rivoluzionari ed anarcho-sindacalisti, soprattutto nel Valdarno, ecco che ci sono state delle proteste e hanno imposto, altrimenti c'era uno sciopero generale, e hanno imposto che lo Stato desse la carta per stampare ad Umanità Nuova, altrimenti dopo una settimana non poteva più uscire, fondamentalmente. E una particolarità, il giornale di Mussolini, che si chiamava Il Popolo d'Italia, ha voluto giocare sporco anche in questa situazione qui, perché si è fatto avanti, no, nell'offrire a Omaitanova parte della carta per poter stampare, e gli anarchici hanno giustamente rifiutato ogni offerta. C'era da parte proprio del capo del fascismo questa volontà, perché da parte sua, ma anche da parte di altri movimenti, c'era sempre il tentativo di acchiappare tra gli anarchici, ma non è riuscito, perché Malatesta e Armando Borghi hanno immediatamente rifiutato l'offerta, anzi rispondendo anche a Pellerine. Altro aspetto interessante in quel periodo, nel 20, nasce Omaitanova, ma contemporaneamente l'Unione Sindacale Italiana da Bologna porta diciamo, a Milano la residenza, proprio perché Milano rappresentava una cucina delle lotte, le lotte della Romeo, piuttosto che altre fabbriche importanti. E quindi c'è questa unità a Milano tra gli anarchici e l'Unione Sindacale Italiana. Armando Borghi era il segretario dell'Unione Sindacale Italiana, un'unione sindacale che, giusto ricordarlo, nel massimo, diciamo, del suo sviluppo raggiunge 500.000 aderenti, va bene? La CGIL, che era il sindacato maggioritario, aveva raggiunto il massimo in quel periodo lì, 1 milione di aderenti. Potete vedere anche la situazione che poteva essere. Non parlo della CISL, va bene? Perché la CISL in quello stesso periodo aveva 3 milioni di aderenti, però attenzione, non erano veri. Che cosa succedeva nella CISL? Iscrivevano un lavoratore al sindacato e assieme a lui iscrivevano tutta la famiglia, no? Moglie, figli, nipoti, madre, padre, per cui con le famiglie numerose che c'erano allora, no? Un iscritto praticamente ne valeva 10, per questo che arrivavano a 3 milioni di iscritti. E questa è una cosa che bisogna sottolineare, perché è importante sapere e conoscere. Comunque l'azione del giornale è molto importante, perché dà fiato a tutte le contestazioni, a tutte le lotte che si esprimono sul territorio. La polizia cerca in tutti i modi di tagliare le gambe, non solamente con la repressione, ma anche facendo attenzione alla burocrazia, va bene? I libri, se sono tenuti bene, non sono tenuti bene, insomma tutte queste cose qui servono alla polizia per chiudere il giornale, ma non ci riescono. E poi abbiamo la prima, diciamo, grande occupazione delle fabbriche, che si esprimono nel 20, però a febbraio del 1920, no? Nella zona del Genovesato, e lì è l'anteprima di quello che si verificherà nel settembre del 1920 con le occupazioni delle fabbriche generalizzate, ma non soltanto le occupazioni delle fabbriche, ma anche della terra, anche delle officine e delle piccole situazioni lavorative. Una lotta generalizzata che parte da un contratto, da un rinnovo del contratto dei meccanici, dei metallurgici, scusate, che va avanti alla lunga, e il padronato attua la serrata. Nel momento in cui viene fatta la serrata, le maestranze occupano le fabbriche, la prima parte dalla Romeo, e all'Alfa Romeo, chiamiamola così, allora si chiamava Romeo, alla Romeo c'è un nutrito gruppo di sindacalisti rivoluzionari dell'Unione Sindacale Italiana, oltre alla CGIL naturalmente, no? Ecco, lì parte la scintilla, l'occupazione generalizzata delle fabbriche, che si espande in tutta Milano e da Milano un po' in tutte le grandi città, in tutte le regioni, ma non soltanto le fabbriche, ripeto, anche le officine, anche le occupazioni delle terre sono molto molto interessanti. Ci sono situazioni di lotta fotografie che si vedono ancora di operai armati di moschetto, no, alle porte delle fabbriche che difendono la fabbrica dal padronato che viene espulso dalla produzione e dall'attacco di fascisti e di carabinieri e di polizia. Gli operai che sono davanti alla fabbrica e la difendono in ogni modo. Ci sono dei tentativi di continuare la produzione senza padroni, e riuscendo in gran parte delle situazioni, ecco, e la storia dura non più di un mese, perché a un certo momento la CGIL firma un accordo con il chiamiamola la Confindustria, con il padronato, ecco, in cambio di una gestione della situazione, nei profitti per gli operai, eccetera. Sa di fatto che Umanità Nuova aveva già capito l'intenzione della CGIL e anche del Partito Socialista, di che quello che volevano fare metteva in guardia i lavoratori, soprattutto attraverso proclami di Enrico Malatesta, che diceva: lavoratori, attenzione, andate fino in fondo alla vostra lotta, altrimenti se perdete, bene, il capitale vi farà pagare con lacrime di sangue la paura che oggi voi date alla borghesia con le occupazioni delle fabbriche. Sa di fatto che l'accordo divide il proletariato, rimane soltanto l'Unione Sindacale Italiana a continuare della occupazione, ma poi dopo breve tempo rientra tutto. Immediatamente dopo l'occupazione delle fabbriche, a ottobre si scatena la repressione. Tutta la redazione di Umanità Nuova viene imprigionata. Qualche giorno dopo tutta la testa dell'Unione Sindacale Italiana viene imprigionata. E questa è la cosa importante, interessante, perché sicuramente si aspettava, come la testa l'aveva preannunciato della repressione, che, ma loro, gli anarchici, si erano organizzati proprio nella prospettiva di essere messi tutti in gattabuia. Nonostante tutta la redazione è in prigione, il giornale continua ad uscire quotidiano, va bene? E nessuno mai ha capito perché, o meglio, la polizia non ha mai capito come faceva ad uscire quotidiano, nonostante tutto, perché Malatesta si era messo d'accordo con Damiani, se non sbaglio, altra penna importante, molto più del Malatesta sotto certi punti di vista, si erano messi d'accordo nel andare in clandestinità, diciamo così, e dalla clandestinità lui ha organizzato la redazione clandestina di Umanità Nuova e usciva quotidiano nonostante tutto. E questo è anche un altro discorso a proposito di anarchici che sono disorganizzati, anzi erano altro che disorganizzati, erano molto previdenti e avevano tutti gli strumenti che hanno messo in atto per avere una continuità nell'uscita, per esempio, di questo grande e importante foglio Umanità Nuova. Malatesta rimane in prigione diversi mesi, fino a marzo, aprile del 1921, ecco, e inizia lo sciopero della fame, e allora ci sono degli allarmi sulla sua salute, era anziano tra l'altro, e gli anarchici chiedono uno sciopero generale alla CGIL che non arriva, la paura che Malatesta possa morire spinge un gruppo di individualisti anarchici a commettere delle azioni, a fare delle azioni, qualche bombetta qui, qualche bombetta là, ma l'ultima dannata è stata messa al teatro al Diara di Venezia a Milano, una bomba che provoca numerosi morti. Perché è stata messa al Diana? no? Perché dicevano, avevano saputo questi individualisti che lì c'era il questore Gasti, che era diciamo il persecutore degli anarchici, tutto quel periodo lì, era lì al teatro che dormiva sopra lì. Invece non era vero, Gasti era già mesi che non era più lì, e uno che vuole fare un'azione fa. L'autore Seppe, non mi ricordo come si chiama, Mantovani, non mi ricordo, nel libro Le memorie di un ex terrorista, che è uscito negli anni 50, parla di questa azione che aveva fatto, no? Dà una giustificazione, lui dice, Giuseppe, adesso mi sfugge il nome, ma me lo ricorderò dopo. Lui racconta un po' la storia, sostanzialmente dice che quell'azione doveva essere rivolta al San Fedele, che era la questura di Milano, ecco, in piazza Fontana, tra l'altro. E si accorgono che erano seguiti, scappano via, per liberarsi di questa cosa qui, la appoggiano sulla finestra del Diana e provocano il danno immane che hanno provocato. E qui su questa questione qui ci sono parecchie voci, parecchie, cioè, Umanità Nuova poi torna nei giorni seguenti sull'argomento, dice: ma come fanno questi qui a fare un'azione di questo genere quando non è vero che Gasti, e tutti lo sapevano, non abitava più lì sul, ecco, come fanno a fare un'azione di questo genere nel momento in cui Enrico Malatesta da un momento all'altro doveva essere liberato e non c'era bisogno di fare cose di questo genere? C'è tanti interrogativi, e tanti interrogativi addirittura che siano stati al loro interno manovrati da qualche infiltrato. Era questa la questione fondamentale. Comunque, con la scusa dell'attentato a Diana, 5 minuti dopo che scoppia la bomba, va bene, già i fascisti sono all'opera per distruggere Umanità Nuova, che era a 300 metri da lì. La sede dell'Unione Sindacale Italiana, che era il Mauro Macchi, tutt'altra parte, è un tentativo di distruggere anche la sede dell'Avanti, che era in un altro posto ancora. Quindi 5 minuti dopo, questa grande organizzazione, no, di fascisti che si muovono contro 3 situazioni della sinistra, lascia capire la provocazione che c'è stata in atto. Ecco. Malatesta sospende immediatamente lo sciopero della fame, sarà liberato un mese dopo, se il fatto che Umanità Nuova viene distrutta, letteralmente bruciata dai fascisti. Rinasce 2 mesi dopo a Roma, però non poteva chiamarsi Umanità Nuova, perché Umanità Nuova era sequestrata dallo Stato, dagli organi dello Stato, e invece escono col titolo L'Umanità Nuova, L'apostrofo Umanità Nuova, stessa grafica, stesso titolo, no? Compagni di Roma, grazie soprattutto ad alcuni sindacalisti rivoluzionari e dell'USI, ma anche sindacalisti della CGIL, perché tanti anarchici lavoravano e avevano dei posti di rilievo anche nell'ambito della Confederazione Generale del Lavoro. Loro fanno rinascere il giornale con un'attenzione, dicendo chiaramente che nel momento in cui Umanità Nuova poteva uscire ancora regolarmente, loro avrebbero chiuso questa esperienza per continuare con la vecchia Umanità Nuova, cosa che viene fatta. Però è importante, no, che sia rinata una voce per contrastare la reazione fascista e la reazione della borghesia contro il movimento anarchico. Cioè, con l'attentato del Diana il movimento anarchico viene letteralmente distrutto. Io dico che ancora oggi ne paghiamo le conseguenze per tanti tanti tanti motivi. tutta quella passione, tutta quella popolazione che fino a quel momento simpatizzava per gli anarchici scompare. Gli anarchici erano giustamente, no, perché hanno provocato quello che hanno provocato, no, erano mal visti da quel momento in avanti. Anche qui, ritornando all'intervista di Augusto Micelli di cui parlavamo prima, lui ripercorre anche questi momenti drammatici di, degli anarchici odiati dalla gente. Va bene? E rinasce poi Umanità Nova ancora a Roma, andrà avanti fino al dicembre del 1922 con alte basse, rinasce ancora sì quotidiano, però perde la diffusione rispetto alla precedente iniziativa della redazione di Milano. Ecco, perde parecchio sia in diffusione e naturalmente ha dovuto difendersi dai continui attacchi, cioè ha subito parecchi attacchi. Il giorno della marcia su Roma, per esempio, Umanità Nuova viene devastata 2-3 volte a Roma, fin tanto che comincia a uscire settimanale, quindicinale, e con dicembre del 22 chiude, non ha più possibilità di uscire, perché nessuno più, ormai il fascismo era gestiva tutto, nessuno più poteva stampare per gli anarchici, per cui chiude l'esperienza. E poi c'è tutto il discorso che ne è venuto fuori, le leggi eccezionali e via discorrendo. Questa Umanità Nuova già non c'è più, però la polizia, la questura continua la sorveglianza e diversi mesi, anche un anno dopo, nel 23, continua a dare informative sul fatto che gli anarchici stessero organizzando, raccogliendo soldi per far rinascere l'Umanità Nuova. Ecco, cosa che poi non è di fatto avvenuta. È nata Umanità Nuova all'estero invece, nel 1924-25 un gruppo di antifascisti, di esuli a New York dà vita all'Umanità Nuova. Escono sostanzialmente 18-20 numeri che sono molto interessanti la loro lettura, per capire un po' la situazione americana degli anarchici. Loro si davano molto molto molto da fare nella sensibilizzare la gente sulla situazione italiana, sull'avvento del fascismo, sulla repressione che era calata sul movimento rivoluzionario. Si danno molto molto da fare, ecco, nonostante siano una realtà americana che è per loro anche precaria. Non è che un po' come oggi la nostra stessa comunità, non è che fosse molto molto diversa. Comunque per due anni escono con il giornale. È interessante la lettura, anche il dibattito che c'è stato, perché molti per esempio lanciavano delle idee, no? Prendiamo una nave, salpiamo, ritorniamo in Italia, facciamo l'insurrezione, per esempio, no? Come altre così, cosa che era impossibile. Si chiude anche l'esperienza nel 25 di Umanità Nuova in America e dobbiamo aspettare poi il 1932, questa volta sempre in America, ma in America del Sud, in Argentina, a Buenos Aires, dove escono due numeri unici in occasione del 1° maggio. Perché nel 30 e poi nel 32? Perché subito dopo, nel 30, c'è stato il colpo di Stato in Argentina di Uruguro, ecco, e gli anarchici sono dovuti scappare in Uruguay, dove c'era Luigi Fabbri. Tra l'altro Luigi Fabbri collaborava con Umanità Nuova del gruppo di sudamericano. sono dovuti scappare per non essere incarcerati, per ritornare al momento in cui Grubur era stato cacciato via. Ecco, e riprendono con un altro numero unico di Umanità Nuova. Anche qui è interessante la lettura perché apre una finestra nell'Argentina di allora e l'attività che veniva svolta dai gruppi anarchici, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista teatrale, di organizzazione di gruppi, di fogli e quant'altro. È particolare anche l'Argentina, per quale motivo? Perché l'Argentina è stata meta innanzitutto di moltissimi italiani già dalla fine dell'Ottocento che si sono trasferiti nel Sud America per sopravvivere, praticamente di emigranti, e moltissimi di loro erano calabresi. E il gruppo chiamato Gruppo Umanità Nuova di Buenos Aires era composto da 500 persone, 500 anarchici, la stragrande maggioranza erano calabresi, e tra i calabresi la stragrande maggioranza erano cetraresi, un paesino cetraro vicino a Paola. Ecco, tra l'altro è stato fatto un libro qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, il gruppo cetrarese. In Calabria stanno uscendo parecchie cose interessanti sull'anarchismo, ecco, danno solo uno sguardo calabrese della rivoluzione e del pensiero. Comunque è singolare. Abbiamo avuto tra l'altro tra le mani l'elenco completo degli associati ad Umanità Nuova del gruppo di Buenos Aires, che sono elencati nel documento in uno dei due DVD. E siamo nel 32. Finisce l'esperienza sudamericana. Contemporaneamente, nel 30-32, rinasce Umanità Nuova a Parigi. Camillo Berneri è il personaggio più interessante e importante del gruppo di esuli politici in Francia, precisamente nella regione parigina. Molto interessante, non solo perché ci ha collaborato Camillo Berneri, ma anche altri, ecco, molto interessante perché c'è tutto un dibattito anche sul foglio tra gli anarchici esuli e il resto degli esuli, soprattutto il rapporto con Giustizia e Libertà, per esempio. E siamo alla vigilia della rivoluzione spagnola, che si verificherà nel 36, ma già negli anni 30, 31, 32 in Spagna c'erano molti focolai di lotta, e Umanità Nuova li ha recepiti immediatamente, ne hanno parlato moltissimo, poi dava uno sguardo veramente internazionale della situazione, la nascita, diciamo, del fascismo, del nazismo anche in altre parti dell'Europa, in Austria, in Germania, in Olanda stessa, in Sud America. Ecco, uno sguardo a macchia, la macchia d'olio, diciamo, dell'espansione del fascismo a livello internazionale, che Camillo Berneri ha registrato su questo foglio. Un foglio che non è che abbia avuto vita facile, sono usciti 10 numeri, va bene, ma i primi 6 sono andati usciti abbastanza normalmente. Poi tra accordi tra la polizia italiana e la polizia francese, va bene, hanno proibito l'uscita del giornale Umanità Nuova in Francia, tant'è vero che ha dovuto cambiare 3 volte nome per finire con l'ultimo numero dal titolo La vecchia Umanità Nuova. E tutta questa documentazione l'abbiamo raccolta e nel DVD, quindi chi ha voglia di leggere, sono dei documenti veramente, veramente eccezionali. Ecco. E questa, diciamo, è la storia del Umanità Nuova fino a un certo punto. Poi naturalmente con la lotta partigiana, con il periodo della resistenza 43-45, ecco, Umanità Nuova rinasce finalmente in Italia. Innanzitutto nasce a Firenze, nella Firenze liberata, diciamo, dagli alleati. E per una ventina di numeri esce Umanità Nuova edizione fiorentina, smette in aprile del 1945. Contemporaneamente nasce Umanità Nuova anche a Roma, quella che poi è oggi è la continuazione della romana, e un numero unico alla vigilia dell'insurrezione contro i nazifascisti del 23 aprile del 1945 a Genova, un numero unico. Anche questi numeri sono veramente importanti per la storia del movimento anarchico. Ecco, questa è un po' la storia del libro. Ci hanno lavorato una quindicina di persone a scrivere, altre persone si sono fatte poi il mazzo a lavorare sui DVD, va bene? E è stato un lavoro immane anche quello. Non vi racconto la storia del, ma questa ve la devo raccontare perché è importante, no? Allora, innanzitutto non esiste un unico posto in Italia dove ci sia la raccolta completa del quotidiano Umanità Nuova. Quella più completa è quella di Firenze, microfilmata, ma gli mancano parecchie cose. Manca per esempio tutta l'edizione L'Umanità Nuova, no? Dei 13 numeri più un numero di saggio introvabile, qui c'è anche il numero di saggio. Qui troverete dei DVD Umanità Nuova americana e sudamericana, che non esiste in nessun posto in Italia di biblioteca. È quella francese, esiste un numero alla Feltrinelli a Milano, uno o due numeri in qualche altra parte d'Italia, e qui c'è la raccolta completa, anche quello sequestrato, il numero 6 di Umanità Nuova, uscito a Parigi. Voglio dire, il quotidiano è stato un problema, perché quando ho avuto tra le mani il microfilm e abbiamo digitalizzato il tutto, meno male che mi è passato per la mente di andare a vedere le uniche cose che avevo di Umanità Nuova quotidiana, l'occupazione delle fabbriche del 1920, che io avevo fatto in fotocopia anni prima, e vado a confrontare e vedo che non combacia assolutamente niente, le pagine non combaciano, c'è qualcosa che non andava, va bene? Immediatamente un controllo, vedo che c'è qualcosa che non funziona, e riusciamo a capire con la biblioteca Serantini di Pisa come sono andate le cose. Cioè, praticamente nel 1966, con l'alluvione del 4 novembre a Firenze, l'acqua ha spazzato via tutto, no? Sono state salvate delle copie del quotidiano Umanità Nuova, che l'anno successivo sono state tutte microfilmate. Parte giuste, ma gran parte tutte le diapositive mischiate, completamente mischiate. Per cui, per 3 anni, ho dovuto fare un lavoro della Madonna, no? A telefono, sul computer, a guardare con Fiamma Chessa, per esempio, a Reggio Emilia, passare le nottate, lei sul foglio di carta mi diceva come iniziava la pagina 2 del numero 1, io andavo a prendere nota, andavo a raccogliere dove era. Un lavoraccio della Madonna. Da lì ho capito che le copie che ci sono in giro per l'Italia di Umanità Nuova, avendo tutte la stessa origine, cioè quella di Firenze, la microfilmatura di Firenze, sono tutte sballate. Quindi qui c'è veramente, innanzitutto che ho messo a posto le cose ed è già tanto. Vi ho ammorbati per un po' di tempo adesso. Se volete fare qualche domanda, magari, non so, perché. Non so, io stavo pensando prima, non so se magari è stato già detto, però visto che in Argentina ci sono una parte consistente di esuli anarchici, diciamo, persone che hanno migrato e hanno dato vita al movimento anarchico, c'è qualche corrispondenza, è solo un po' forse dal libro, sicuramente, ma c'è qualche notizia, sia qualche storia che riguarda il rapporto tra gli anarchici argentini e il periodo della dittatura. Gli Uruburri? No, l'ultimo dei 78, della dittatura del 78, di Varela. Ah, tu parli della Videla. Esatto, Videla. Videla. Ah. C'è qualche, magari qualche storia. Beh, dai, beh, quando è successo. Oppure il movimento era stato, diciamo, falcidiato, sì, quindi. No, in Argentina c'era proprio, io mi ricordo negli anni 70, delle corrispondenze dell'Argentina. No, allora l'Argentina è stata uno dei paesi dal punto di vista storico. Molto importante per l'attività degli anarchici già dalla fine dell'Ottocento, anzi è stata l'Argentina la situazione più ricca, no? Di presenza anarchica, soprattutto nel mondo del lavoro. La Fora argentina, tanto per ricordare una situazione, era un po' come l'USI in Italia, era il primo sindacato in Argentina, la Fora, che era stata organizzata già alla fine dell'Ottocento con Pietro Gori, che allora era esule in Sud America, Enrico Malatesta prima era stato in Sud America, insomma molti pensatori, molti militanti erano passati da Buenos Aires e avevano lasciato la Fora e l'anarcosindacalismo. E un po' più che l'Unione Sindacale Italiana, la Fora è la CNT spagnola come importanza e come primo sindacato. E quindi e anche lì c'è stato tutto un discorso un po' parallelamente come è stato in Italia. In Italia è stata la strage del Diana, va bene, lì c'è stata la settimana tragica, insomma la semana tragica, insomma sono state una serie di operazioni poliziesche, quindi di repressione, che hanno stroncato il movimento. Certamente negli anni 70, no, del Novecento, il movimento anarchico in Argentina era completamente diverso rispetto a prima. La stessa fotocopia dell'Italia, no? Che il movimento anarchico del dopo fascismo è completamente diverso da quello prima del fascismo, per incisività, per presenza, per organizzatore di lotte. Ecco, in Italia si è ripreso qualche cosa col 68 e soprattutto negli anni 70, anche qui è molto interessante andare a scandagliare. E la stessa cosa più o meno in Argentina. Poi in Argentina è stato il peronismo, cioè che ha distrutto un po', sì. E anche all'interno, poi negli anni 60-70 c'è stata un po' più di tutto il mondo, diciamo la formazione di massista. Più in Argentina si è mischiato il nazismo col peronismo. Il peronismo sia a destra che a sinistra ha fatto strage. Gli anarchici erano quelli che sono rimasti più o meno, erano comunque una minoranza, però c'erano, ci sono ancora adesso. Abbiamo relazioni con la Federazione Argentina, che non sono numeri enormi, però sono numeri consistenti e fanno delle cose, chiaramente con i mezzi che sono. Biblioteca, Buenos Aires hanno una biblioteca internazionalista, storica, poi le situazioni, poi hanno partecipato e partecipano alle occupazioni delle fabbriche, questo adesso attualmente, no? Però comunque la situazione in Argentina era una situazione diversa, cosa che invece magari in Uruguay era un pochino diversa, perché c'è stata un'influenza diversa, anche se poi in quegli anni lì comunque il massimo leninismo ha fatto Piazza Pulita. Però lì c'era stata bene o male un po' non c'è stato il peronismo, quantomeno il peronismo ha salvato un po' di gente da questo punto di vista. Ecco, per la diffusione della Umanità Nuova, ad esempio in quella edizione francese, no, di Camillo Berneri, interessante perché siamo riusciti ad avere un documento con tutto l'indirizzario di Umanità Nuova, che veniva spedito in tutto il mondo, ed è un documento di polizia, cioè è interessante perché tu vai a vedere lì, no, nome e cognome, e a matita c'è scritto anche addirittura lo pseudonimo, perché tanti erano, cioè essendo clandestini in tutte le parti del mondo, utilizzavano degli pseudonimi, no? E la polizia spesso e volentieri sapeva quale era il vero nome e lo scriveva a mano a fianco. Interessante sapere, no? Chi leggeva Umanità Nuova, al di là dei militanti, degli anarchici, ma l'elenco riproduce una serie di personaggi che non hanno nulla a che fare con l'anarchismo. Per esempio, tutti i maggiori capi dell'antifascismo, addirittura della Democrazia Cristiana, no, erano abbonati a Umanità Nuova perché erano interessati a leggere che cosa c'è. In Italia, perché guardate il fascismo, non c'era diversamente, solo una persona aveva il permesso di ricevere Umanità Nuova, il permesso dal fascismo di ricevere Benedetto Croce, l'unica persona. Benedetto Croce era l'unico in Italia a leggere, ad avere la possibilità di leggere Umanità Nuova. Poi Emilio Lussu, i fratelli Rosselli, Saragat, che poi sarà presidente il capo del fondatore della Democrazia Cristiana, come si chiama il prete? Luigi Sturzo, che era in Inghilterra, e lui era abbonato a Umanità Nuova, per dire che insomma c'era questo interesse. E questo elenco non l'abbiamo inserito nel DVD, quindi nel 2 DVD avete la possibilità di leggere tutto il quotidiano Umanità Nuova. Mancano 2-3 numeri introvabili, magari una prossima edizione riusciremo anche a trovarli, lo spero. Tutta Umanità Nuova quotidiana, tutta Umanità Nuova uscita all'estero, va bene, e tutta quella prodotta durante il periodo della Resistenza. E ci fermiamo al 18 di aprile, maggio del 1945. E questo è, diciamo, il primo volume dell'opera, perché adesso ci metteremo all'opera, già in parte è stato scritto, per dare una continuità, perché il progetto è quello di il secondo volume, La storia di Umanità Nuova, dal 1945 fino al 77 o 1980, con la riproduzione digitalizzata del settimanale. Dal 45, anzi riprenderemo dal 43, edizione diciamo romana, che è presente anche lì, e fino agli anni 80, ecco, poi vedremo. Sarà un lavoro immane, ma bisogna farlo, è utile. E quindi abbiamo dato con questi due DVD degli strumenti veramente essenziali, importanti per gli storici, per ricercatori, per persone interessate, insomma, no, all'argomento, perché il giornale, il quotidiano è stato un testimone veramente importante del Novecento, ecco, del periodo del passaggio al fascismo e la guerra civile che si è espressa in Italia in quel periodo lì, per la lettura delle lotte quotidiane, degli eccidi, degli assassini per le strade. Insomma, in quel periodo sono stati 300 assassinati nelle strade d'Italia nella lotta contro il fascismo, e insomma si può parlare sicuramente di guerra civile. E questa è l'opera, questo è il lavoro. Abbiamo per esempio delle curiosità che riguardano, non so, Rosselli, che magari leggeva Umanità Nuova, o non so, come lui si poneva ad esempio nei confronti anarchici, sì, se abbiamo delle curiosità. Beh, sui rapporti tra Rosselli e gli anarchici in Francia c'è del materiale, sono state scritte diverse cose, no? Innanzitutto c'è da dire questo, che giustizia e libertà quando nasce spera di fare proseliti tra gli anarchici e parecchi infatti aderiscono anche a questo movimento in Francia durante l'esilio. Ed è soprattutto Camillo Berneri la figura che lega gli anarchici a giustizia e libertà. C'è un carteggio molto interessante tra i due, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista di azioni comuni e da fare. Ecco, fin tanto che anche Camillo Berneri si accorge a un certo momento che sotto sotto Giustizia e Libertà cercava di togliere al movimento anarchico, prendere un po' il meglio, ecco, e rinforzare. L'unità di azione tra Giustizia e Libertà di Rosselli e gli anarchici si esprime con la rivoluzione spagnola del 1936. Il primo gruppo di esuli che arriva a Barcellona, di esuli anarchici che arrivano a Barcellona il primissimo, è composto da 130 persone, va bene? Chi sono queste 130 persone? Conoscono tutti, nome e cognome, eccetera, no? Allora, per il 90% sono anarchici, un'altra parte Giustizia e Libertà, alcuni comunisti della sinistra, dissidenti, ed alcuni repubblicani. Quindi la stragrande maggioranza era un gruppo formato da anarchici, quello che arriva a Barcellona. Però il comando viene dato a Rosselli, va bene? Tant'è vero che ancora oggi è chiamato il gruppo Rosselli, in verità bisognava chiamarlo gruppo Camillo Berneri, perché è stato lui, ecco. E su questo c'è una storia, ecco, in questo caso poco conosciuta. Per quale motivo? Perché solo adesso, a distanza di tanti decenni, comincia ad arrivare della documentazione della polizia francese su quei periodi là. Mi spiego un attimino, perché è interessante anche. Allora, perché comincia ad arrivare adesso la documentazione della polizia francese e viene addirittura non dalla Francia ma da Mosca? Allora, innanzitutto c'è da dire questo, che gli anarchici, e non solo gli anarchici, tutti gli antifascisti, ma in particolar modo gli anarchici, nel momento in cui sono arrivati in Francia clandestinamente, sono stati repressi in una maniera impressionante, tant'è vero che tantissimi di loro si sono dovuti nascondere, cambiare nome, pseudonimi, indirizzi continuamente, erano dei sans-papiers e quindi venivano espulsi. E la polizia francese ha stilato tanti documenti sulle persone. Quando è scoppiata la seconda guerra mondiale e sono arrivati i tedeschi a Parigi, i tedeschi hanno preso tutto l'archivio polizia e lo hanno portato a Berlino, va bene? Dove è rimasto fin tanto che a Berlino è arrivata l'Armata Rossa, che ha preso tutti questi documenti d'archivio e li ha portati a Mosca, dove sono rimasti sepolti per 50 anni. Dietro l'insistenza dello Stato francese, solo in questi ultimi anni sta ritornando indietro il materiale e stiamo scoprendo molta documentazione in merito. Tant'è vero che ci sono dei papier e tanti altri così su Camillo Berneri, proprio in quel periodo lì, quando organizzava nel 1936 il gruppo che poi è andato in Spagna, e quindi tutti i rapporti che aveva con Rosselli e con una serie di personaggi repubblicani, dissidenti socialisti, comunisti, ecco. E su questo aspetto qui della documentazione non si sa ancora nulla, perché è tutto da studiare, capito? Però ci sono i documenti. Per quanto se ne sa, poi nella guerra di Spagna Camillo Berneri è andato un po' in conflitto anche con Giustizia e Libertà, tant'è vero che Rosselli è stato poi destituito, comunque se n'è andato via dall'essere a capo, no? del gruppo di esuli, il primo gruppo di esuli che è andato in Spagna. C'è il libro della corrispondenza di Carlo Rosselli, dove si possono trovare delle cose interessanti. Ci sono due libri della corrispondenza di Camillo Berneri, editi dall'archivio Berneri, poi sono passati tanti anni, fine anni 70, inizi anni 80, cominciano a non trovarsi più quei libri lì, però la documentazione c'è. Ecco. E poi soprattutto se tu sfogli la rivista storica dell'anarchismo, che è uscita per 10 anni, ci sono diversi articoli e un paio centrati proprio sui rapporti tra gli anarchici e Giustizia e Libertà. Tu non l'hai mai vista la rivista storica dell'anarchismo? La conosci? Ecco, in media ci sono, e oggi è ancora facile trovarla, non so se vai in un archivio qualsiasi, alla Feltri o a casa sua, è facile insomma trovarla perché è 10 anni, da 10 anni che non si fa più, però per 10 anni è uscita una bella rivista. No, ma io sono uno dei tanti. E mi spiace interrompere la conversazione, che magari possiamo continuare dopo a cena se vi fermate, come spero. Però dobbiamo, più che altro perché dobbiamo cominciare a preparare. Dai, montare, va bene. Io, cioè, grazie mille veramente perché è stato stra interessante comunque come chiacchierata. No, ripeto, se magari vogliamo continuarla anche dopo. Ma se c'è qualcuno che vuole fare domande, si può parlare un bicchiere di vino, insomma. Basta, sì. No, grazie mille. Ok, grazie a voi. Molto buona, è una coppia del tuo. Perché è arrivato tardi, non ci sono delle porti. Se qualcuno ha fatto il mondo, ci sono. Tu vai in cucina.